Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. C'è stato un incidente nella metropolitana di Mosca, c'è stato il deragliamento del vagone di un treno, 10 persone sono morte secondo quanto riferisce il vice sindaco della capitale russa, 95 i passeggeri trasportati in ospedali, molti dei quali in gravi condizioni, e per questo si teme che il bilancio delle vittime possa aggravarsi nelle prossime ore. Secondo le prime ricostruzioni il convoglio è deragliato a causa di un calo di tensione a 200 metri dalla stazione di Slavianskij Boulevard nella periferia ovest della capitale russa. Sarebbero almeno 200 le persone che sono state fatte uscire dal tunnel dai vigili del fuoco. Oggi sono accaduti due episodi che in realtà non hanno nessun nesso tra loro, che però ci fanno riflettere su qualcosa che attraversa la nostra esistenza. L'uno è questo episodio accaduto a Mosca, truce, terribile, violento, una metropolitana che deraglia, finora si parla di 16 persone morte, un centinaio ferite, quindi un grosso incidente, è l'apoteosi di tutte le più terrificanti elucubrazioni che fa ognuno che ogni volta che entra in metro. Ci sono molte persone che entrano in metro e hanno timore di entrare, perché significa andare sottoterra, affrontare un viaggio che considerano innaturale per il loro bisogno e desiderio di avere sempre il cielo sulla testa. Quindi magari prendono mezzi pubblici, impiegano un'infinità di tempo in più per non scendere in metro. Altri in realtà vanno in metro tranquillamente, ma mettono a punto alcuni stratagemmi scaramantici perché sanno che la metro è comunque qualcosa di inquietante, qualcosa che non fa parte della nostra vita quotidiana, camminare nelle viscere della terra, vedere il mondo sottoterra. C'è un passaggio bellissimo di Roma di Fellini, uno dei più indimenticabili, quando nello scavo della metropolitana romana improvvisamente si entra in una domus romana. Antica, della Roma antica, ci sono tutti questi affreschi bellissimi che, come colpiti dalla luce del sole, svaniscono, che improvvisamente la modernità, la contemporaneità infrange quello che la terra nascondeva nelle sue viscere come suo segreto. L'altro episodio è molto più semplice, molto più banale, di quotidiana vita capitolina. La metropolitana A di Roma, che è una metropolitana importante, passa per il Vaticano, passa per il centro della città, si è bloccata da questa mattina perché si è staccato un tubo del sistema idrico, ha attraversato il finestrino del guidatore, quindi si è bloccata. Altro episodio che però dà corpo a quelle che sono le paure dei viaggiatori in metro. Perché? Perché tutto potrebbe accadere. Voi che tipo di viaggiatore siete quando entrate in metropolitana? Qual è la vostra vita di quotidiana metropolitana? Come pensate che secondo voi sia possibile affrontare, se avete qualche problema di ansia, problema di claustrofobia o problema comunque di promiscuità con gli altri esseri umani, il fatto che si entri dentro una metropolitana? Siete di quelli che prendono l'ultima vettura? Siete di quelli che aspettano che salgano tutti gli altri? Siete di quelli che entrano senza naturalmente aspettare che gli altri possano uscire? Una volta dentro siete quelli che hanno paura di quegli spettacolini quotidiani che si svolgono all'interno delle metropolitane, con il suonatore d'organetto, con la musica sempre la stessa registrata in tutte le città d'Italia, con quella che si butta per terra e dice: vorrei soltanto pochi soldi per latte per mio figlio, e tutto l'altro fantastico mondo di umanità che passa attraverso le metropolitane. Come viaggiate sottoterra? 800240024. Il fatto è avvenuto poco prima delle 10, quando un treno, entrando nella stazione di Gioia, che vedete alle nostre spalle, ha tamponato un treno che era proprio in banchina. Tutti hanno raccontato di un treno che è arrivato sulla curva che porta poi alla stazione del Bronx a una velocità più elevata della normale. A quel punto appunto il deragliamento in curva che ha coinvolto probabilmente 5 vagoni, anche se insomma, a poche centinaia di metri su una piccola collina. Devo dire che l'immaginario del viaggiare in metropolitana è stato attraversato infinitamente da tutta la narrativa contemporanea. La parola metro fa venire in mente l'amplesso selvaggio e invidiabile di Catherine Deneuve con Gérard Depardieu nel film di Truffaut, L'ultimo metro. Non c'entra nulla, però anche lì diciamo che la fermata metropolitana era fondamentale in questo intreccio amoroso. Ma la metropolitana, per andare con immaginari più contemporanei, è uno delle tappe dei mondi paralleli della saga di Matrix. Molto si svolge nella metropolitana, ci sono attese, ci sono passaggi, ci sono incontri, sempre nella metropolitana, perché è un luogo tipico, sono uguali dappertutto le metropolitane, e comunque ne entrate e ne uscite senza che lasci di voi altre tracce che quella del vostro probabile portafoglio sottratto, o quello di avere un rapporto più promiscuo, più vicino, più viscerale con il resto dell'umanità, che normalmente non si ha. Normalmente è molto difficile avere contatti così promiscui, così vicini e così sensorialmente pregnanti. Proprio per questo probabilmente c'è riottosità ad entrare nella metro. Non tutte le città sono attraversate dalla metropolitana, ma le grandi città hanno questa sorta di intreccio sotterraneo. E chi entra in metro, il viaggiatore di metro, ha una caratteristica abbastanza diversa, molto differente da il medio viaggiatore che prende i mezzi pubblici, naturalmente. Ma voi che prendete e attraversate la città attraverso, usando appunto i vagoni della metropolitana, avete degli stratagemmi di sopravvivenza particolari? Avete una sorta di etichetta, di galateo del viaggiatore in metropolitana? Dove vi collocate? Vi posso dire quello che è la mia maniera. Io vado sempre verso l'ultimo vagone, per quello meno affollato. Quando vado nell'ultimo vagone mi metto in fondo all'ultimo vagone con le spalle al guidatore, non so perché trovo che sia la maniera, il posto dove maggiormente si abbia possibilità di controllare meglio quello che è il tracciato della metropolitana. E naturalmente molte persone da me intervistate, da me sentite, cioè perché voi non salite in metropolitana, tanto vi prego di dare il vostro contributo, 800240024, non voglio pensare che il pubblico che mi ascolta non vada in metropolitana, se non ci va voglio capire qual è il motivo, qual è la conferma che trovate in questi incidenti del fatto che è pericoloso andare in metropolitana, che è sgradevole, che non ci piace stare sottoterra. Sono cose che si sentono dire, ma fanno parte delle nostre fobie quotidiane. Guardate che io posso tranquillamente parlare di vita metropolitana in metropolitana fino alla fine della trasmissione, però mi piacerebbe confrontarmi con qualcuno, sentendo degli incidenti di Mosca, sentendo le morti di Mosca, o sentendo molto più banalmente di quello che è accaduto a Roma, in cui una arteria fondamentale dei passaggi sotterranei in una città così stratificata, così piena di storia, dove ogni strato è un pezzo di storia, cosa vi suggerisce? Oppure fate parte di quelle persone che dicono: ma io naturalmente non sono toccato da questi problemi, prendo la metropolitana quando serve, viaggio sottoterra se serve, senza nessuna particolare predisposizione. Io ho notato, ad esempio, una radicale differenza tra il viaggiatore di metropolitana milanese, ad esempio, e il viaggiatore della metropolitana romana. Verso il nord del nostro paese, a Milano, chiunque prende la metropolitana capita di incontrare professori universitari, capita di incontrare signore molto ben vestite, molto ben acchittate. Mediamente il cittadino romano tipico disdegna l'entrata alla metropolitana perché in qualche maniera lo bolla come appartenente a una sorta di classe sociale che è costretta a prendere la metropolitana. Viene vista come un viaggio di ripiego, un viaggio di necessità, di chi ha molta fretta e poca disponibilità. È difficile vedere i miei colleghi nella metropolitana, è molto difficile, mentre a Milano capita molto più facilmente. Esiste anche nella metropolitana e in certe linee della metropolitana questa sorta di netto e fondamentale separatore sociale. Le metropolitane che vanno verso la periferia, che si allontanano dal centro cittadino, trasportano quella fetta di umanità che normalmente nelle ore della fine del lavoro si sposta nei grandi dormitori. Le metropolitane sono piene di stranieri. In certe ore nelle metropolitane sparisce la connotazione, diciamo, geografica, temporale. L'indicatore del luogo geografico in cui ci siamo non c'è più, perché ci sono soltanto stranieri, sono quelli che prendono più metropolitane. Andrea, buongiorno. Buongiorno, la chiamo da Milano. Ecco, è vero quello che ho osservato io, che il viaggiatore medio in metropolitana milanese è geneticamente differente dal viaggiatore in metropolitana romana, ad esempio? Io la metropolitana romana non la conosco molto, posso descriverle più o meno quello che vedo nella metropolitana milanese. Sì. Una quantità immensa di persone italiane che giocano con gli smartphone, messaggiano via WhatsApp, controllano il profilo Facebook, e poi un bel po' di stranieri che fanno un po' più di rumore, parlano tra di loro, sono meno autistici, mettiamola così. Ecco, questo termine usiamolo nella maniera corretta, lo dico perché ho fatto battaglie con illustri colleghi sull'uso improprio e banale il termine autistico. L'autistico è un'altra cosa, non è una persona che sta isolato, è una sindrome abbastanza difficile da gestire, quindi diciamo che sono più propensi alla socialità diretta, al sistema, esatto, diciamo analogico, esatto, di incontrarsi. È vero, lei ha messo il punto su un fattore che non avevo toccato, ma aspettavo che fosse sollecitato dal pubblico. La metropolitana è un grande acceleratore di socialità digitale. Appena ci siede in metro si tira fuori lo smartphone. A Roma questo non accadeva perché soltanto da un anno e mezzo c'è connettività anche, diciamo, nelle parti essenziali della metropolitana. A Milano ha sempre funzionato il telefono, quindi tutti appena si siedono prendono lo smartphone in mano. Cosa fanno? L'ho notato, si scorrono i social network, ma anche molte volte è una maniera banale per occupare il tempo, ci si sente quasi osservati dagli altri, se si tengono le mani occupate in qualche maniera, naturalmente improvvisamente bisogna ricorrere a quelle forme arcaiche di socialità che invece sono più facili per gli immigrati, parlare, vociare, sentirsi, via dicendo. Altro dato, nella metropolitana ci si immerge in una sorta di bolla sensoriale perché ci si mette subito le cuffiette e si ascolta la musica. Yolanda, buongiorno. Buongiorno. Che esperienza dunque, metà degli anni Ottanta. Mi trovavo a Parigi, non ero mai stata in metropolitana, per cui mi sembrava anche una cosa molto, molto bella da fare. Ero con marito e figlio di una decina d'anni. Si è ispirata a film di Truffaut che avevo citato io? No, adesso non ricordo qual era la fermata, l'ultimo metro, ma era una fermata alla metropolitana di Parigi. No, non lo so. Comunque, si apre la porta, vicino a me c'era una ragazza asiatica. Questa ragazza sale, appena sale afferra mio figlio che aveva avuto 9-10 anni come per portarlo giù, dicendo delle cose che per me erano assolutamente incomprensibili, cioè lo voleva rapire, in quale lingua parlasse, e l'ha afferrato, sembrava mezza matta. Io all'ultimo momento, un attimo prima che si chiudessero le porte, ho afferrato mio figlio, ho dato una gran spinta e questa qua è caduta giù dalla metropolitana. Io non ci salirò mai più. Ecco, ma quindi è accaduto quello che diciamo è uno dei tanti incubi del viaggiatore in metropolitana, è successo che veramente ci rapiscano i bambini. Lei è successo veramente? Sì, è stato uno shock veramente. Ma come gli hanno afferrato questo figlio? Cioè, la donna era piccolina di statura, una ragazzina sembrava, afferrato mio figlio e come per portarlo giù dal vagone. Mio marito era davanti a me, però mi dava le spalle perché stavamo salendo, e io mi ritrovo con questa che stava tentando di portarlo giù dalla metropolitana, e io in un attimo ho tenuto mio figlio, proprio l'ho affrettato perché gli ho fatto pure un po' di male al braccio, l'ho spinta con una manata e si è chiusa la porta e lei è caduta giù. Questo, diciamo, comunque io sto questa mattina dando concretezza a tutti quelli che sono gli incubi ricorrenti del viaggiatore in metropolitana. Io quando ci penso ancora mi emoziono. Sì, che qualcuno tristemente e crudamente si è già concretizzato nella vita reale con quello che è accaduto a Mosca, altri li stiamo raccogliendo i nostri ascoltatori, riprendiamo tra un istante, 800 24 00 24. Melog, Cronache Meridiane. Stiamo cercando per quanto possibile di ricostruire i motivi dell'incubo per chi viaggia in metropolitana, se questo viene considerato un incubo, se un viaggiare tranquillo, sereno, quotidiano, come accade a me, è una maniera velocissima per andare da casa al lavoro, non ci trovo nulla, anzi trovo uno degli ambienti più stimolanti, più interessanti, più divertenti. Mi piace, anche se so che non è permesso, fare molte foto dentro la metropolitana, dei viaggiatori, delle persone che dormono, delle persone che aspettano, delle persone in banchina. Vi elenco altri episodi tipici della metropolitana, sempre dell'aura delle cose cruente, il suicida della metropolitana o la persona che cade in maniera casuale, accidentale sui binari, l'incidente, che si fermi tutto, che manchi l'aria, queste sono le cose che spaventano. Giuliano, buongiorno. Buongiorno. Personalmente quando vedo quella banchina come una specie di burrone mi viene sempre, ho sempre pensato fin da piccolo che qualcuno potesse buttarmi giù. Poi è successo davvero a Milano anni fa, una signora venne buttata purtroppo sotto da un pazzo che poi venne arrestato successivamente, e quindi il risultato è che quando io vado in metropolitana mi metto sempre un po', come dire, un po' si addossa al muro, diciamo. Sì. Sì, lo faccio oppure semplicemente mi metto di sbieco in maniera che so che spingermi diventa un pochino più difficile, lo so. Ma lei sceglie anche lei, no? diciamo la testa, la metropolitana, il luogo dove si addensano meno persone. A Roma la maggior parte degli orari ci sono persone che sono turisti, quindi non conoscono come funziona e stanno tutti di fronte al primo vagone, tonnellate, dove si ammassano. L'ultimo vagone è vuoto, ci sono 3-4 persone che conoscono il segreto e stanno in quello vuoto, dove è molto anche più sicuro stare. Esattamente, però no, non diciamolo troppo, sennò anche è il segreto dei metropolitanisti. Diciamo, stanno appiccicati l'uno all'altro, nel primo vagone, nell'ultimo è vuoto, deserto, c'è anche posto a sedere. Carla, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Io non ho mai preso la metropolitana per una questione di un po' di paura, un po', non forse claustrofobia. Ma lei è romana, vive a Roma? Sì, sono di Roma. È fortunata quindi, che non ha mai avuto bisogno, perché molte volte la metro risolve molti problemi. È vero, la metro risolve molti problemi, ma non l'ho mai presa perché mi sono sempre spostata in automobile. Proprio allora perché... lei è la classica, onestamente, non lo voglio dire, la classica romana, che gli fa schifo entrare in metro perché c'è la gente che puzza, perché lei va in macchina. Io lo so, tonnellate di amiche mie che vanno dal basso ceto impiegatizio al ceto di alta, diciamo, terziario avanzato. Dicono, io in metro manco morta. No, non è così, sì. È che accompagnando i figli a scuola e li devi accompagnare in macchina, non è possibile accompagnarli in macchina se vivi fuori dal raccordo anulare. Però detto questo, quando poi devi sbrigare le pratiche, devi fare dei giri, la metropolitana torna utile. Non l'ho mai presa perché ho sempre detto ok, lo faccio in macchina, sì, è colpa mia perché dico mi muovo meglio. Per questo nella la città è abbastanza, sì, vero, il suo muoversi sempre in macchina, e anch'io guido, quando capita vado in macchina, ma la metro funziona per quello, se lei deve andare all'euro fa prima andarci in metropolitana. Però poi è capitato che sono stata a Parigi e sì, quindi lì mi sono ritrovata naturalmente senza macchina, però c'erano i taxi e ho preso la metropolitana e sono rimasta sconvolta dall'efficienza, dalla bellezza e soprattutto, diciamolo, dall'educazione che hanno le persone parigine. No, perché poi come ha detto lei poc'anzi, sì, la metropolitana è il treno del mondo, no? Ci salgono tutti. Non c'è nulla di più cosmopolita che una metropolitana. Appunto. Sì, ma lei a Roma non ha fatto mai la prova, che ne sa come funziona? Sì, potrebbe... sì, l'ho presa, no, quando sono tornata a Roma ho detto wow, la metropolitana è fighissima. E che le è successo? No, mi hanno rubato 4 volte il portafoglio. Poi c'è una maleducazione e quello che è più sconvolgente, io sentivo prima il signore di Milano, io non so le metropolitane di Milano come quella di Napoli o come quella di, non lo so, di un'altra città, se sono sporche tanto quanto quella di Roma. Se a Roma, diciamo, la linea B è particolarmente zozza, devo dire. Perché la linea A che le ha fatto. No, ma non solo, ma gli zozzi siamo noi primi, in primo luogo, i passeggeri, ma senz'altro poi chi la gestisce, chi la dovrebbe mantenere, dovrebbe far sì che fosse un pochino... Comunque abbiamo capito, anche lei ha concretizzato tutta una serie di fobie, molte lecitamente appoggiate su dati concreti, da metropolitana. Franco. Vorrei dire, non è giusto che noi diciamo che andiamo poco in metro, dobbiamo essere un po' colpevolizzati. Io in gioventù ci andavo spesso. Poi però per principio non colpevolizzo nessuno, analizzo dei dati e mi aspetto dal pubblico un'integrazione a quelle che sono mie ipotesi. Io come tecnico so che la metropolitana può essere più sicura di tanti altri mezzi per questioni statistiche. Il problema è che molti anni fa, non so se tutti si ricordano, è successo il casino del sarin. Certo, sì. Ma soprattutto è successo l'11 settembre, che ha segnalato uno spartiacque. In che senso? Che mentre il sarin era una setta di pazzi abbastanza, diciamo, concisa, piccola, no? Sì. Ecco. Invece l'11 settembre purtroppo c'è di mezzo un gruppo di persone molto esteso, per cui la vita umana non vale assolutamente niente. Sì, però sono presa con dei grattacieli, non con la metropolitana. Ma è sempre la stessa cosa. È rischioso anche andare in ufficio, quindi. No, ma di persone che gli va bene anche uccidere tanti altri, magari perché sono infedeli, diciamolo pure, sì, sì, sì. La vita umana non con... Allora dico, uno ha un pochino di FIFA e potrebbe anche essere quella la spiegazione dopo l'11. Secondo me nella metro c'è più rischio terrorismo rispetto che in altri posti, questo... Eh sì, perché è più facile, insomma, sì, anche se statisticamente si rischia molto più andare per strada. Non scordiamoci che c'è stato l'11 settembre e che purtroppo all'11 settembre sono legati milioni di persone per cui la vita umana vale meno di sì, ma niente. Qual è il nesso con la metro? Vorrei capire perché la sua paura è concentrata più sulla metro, non sull'autobus, ad esempio, o il treno. Nel treno sarebbe molto... No, in genere la mia paura è concentrata sul fatto che dove c'è un assembramento di persone, oggi, rispetto alla guerra di una volta che c'erano certe questo è il suo punto di vista, ma l'assembramento c'è anche... Io adesso esco dalla radio, c'è un assembramento a Piazza Indipendenza. Non sì, devo però stare diciamo più... che lì, o con un po' di sarin, o con qualcosa fra i binari, o con una fialetta, o anche solo allagando, eccetera... La fialetta è quale? Quelli che fanno la puzza? Perché quelle le buttano ogni tanto, sono ragazzacci. Ma quelle le ho buttate anch'io un giorno nel tram, quando allora, ero si muore, c'è un po' di carnevale, no? Ho battuto una di quelle fialette... Qualcuno anche, diciamo, doti naturali per dare lo stesso effetto con le ma sue ma io non volevo uccidere, ecco. No, ecco, vabbè. Grazie. Io un po' di paura, ecco. Vabbè, paura, tutti abbiamo paura. Luca. Sì, salve. Sì. Tutto complimenti per la trasmissione che mi tiene sempre compagnia quando sono in macchina, che come commerciale, insomma, ne ho sempre un po' bisogno, no? Andiamo alla metro. Vengo subito al punto, volevo appunto dire che il fatto che sia un crogiolo cosmopolita e sia uguale un po' dappertutto è verissimo, perché io vengo da una città, Modena, che la metropolitana non ce l'ha, però un po' per lavoro, un po' per viaggio ho provato quella di Barcellona, quella di Roma, quella di Milano, addirittura anche nel 92 in Francia, e a me personalmente quello che mette sempre un po' di timore è più l'altro essere umano, cioè le altre persone. Lo so, però da questo, non ci salva di non andare in metro, le altre persone le frequentiamo comunque. Daniela, ultima Daniela, 5 secondi. Eccomi, buongiorno, brevissima. Sì. Allora, un'esperienza di quando avevo 16 anni, primo viaggio, diciamo da sola, con la scuola metropolitana di Parigi. Che è successo? Me lo ricordo ancora. È successo che un signore, chiaramente fuori di testa, sì, tutto vestito di tutto punto, hanno cominciato a urlare, a un certo punto si è spogliato nudo e gridava je fais scandale. E lei ha visto il pendolo di questo signore? E io ho visto il pendolo di questo signore. Lo so, mi rendo conto, spero sia rimessa da questo shock, ci sentiamo domani.